Sul linguaggio della verità dobbiamo dire che adesso abbiamo una grande occasione e da qui, visto che siamo alla ripresa, la procedura di urgenza che la Camera dei Deputati ha dato perché dal 1 settembre si cominci in commissione a discutere con urgenza il cambiamento, a mio avviso, più urgente che ci sia, il cambiamento della legge elettorale, cambiare una legge elettorale che così com'è non funziona, una legge elettorale che consenta quella nuova che a ottobre, io penso, la Camera dovrà approvare, che consenta a ognuno di noi di scegliere. All'Italia non vale nulla, secondo Air France. Il vettore francese è azionista, zero la sua partecipazione. Un tour operator olandese scrive: se va in bancarotta non rimborsiamo. La compagnia replica: garantiamo la continuità dei voli. E ancora scontro nella maggioranza sul voto palese per la decadenza di Berlusconi. Oggi intanto la legge elettorale torna in primo piano. Avete sentito Enrico Letta che diceva entro ottobre la Camera dovrebbe approvare la nuova legge elettorale. Oggi finisce ottobre ed è il No Porcellum Day, giornata di protesta. Ospite tra poco il ministro Quagliariello. Doppio sciopero oggi, si fermano baristi e lavoratori dei pubblici servizi e bancari, manifestazioni in alcune città d'Italia contro la rescissione dei contratti da parte di Fipe da una parte e ABI dall'altra. Inflazione ai minimi, si attesta allo 0,7% tanto in Italia quanto nell'Eurozona, benzina giù del 5,5% su base annua, Istat diffonde anche i dati sulla disoccupazione al 12,2%, quella giovanile oltre il 40%. Ucciso a Quartogiaro, periferia milanese, un boss della droga, il terzo omicidio in pochi giorni, si sono registrate anche minacce in una scuola, il racconto del luogo e dei fatti dal questore e da un giallista che ci è nato. Napoli e Juventus tengono il passo nell'appuntamento infrasettimanale con il campionato, questa sera tocca alla Roma che si confronterà con il Chievo. Ed eccoci, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, una buona giornata da Simone Spezia. In apertura parliamo di Alitalia, ma come audio abbiamo voluto inserire queste parole del Presidente del Consiglio Letta. Abbiamo raccolto delle voci in queste settimane sulla protesta contro il Porcellum, ve le faremo ascoltare e poi ne parleremo appunto con il Ministro delle Riforme. Iniziamo però dalla ex compagnia di bandiera, oggi la presentazione dei conti di Air France KLM, che ha deciso di azzerare la partecipazione, il valore della partecipazione. Sentiamo. Air France KLM parteciperà all'aumento di capitale di Alitalia solo se le condizioni del gruppo franco-olandese saranno rispettate, e oggi non lo sono. È quanto ha spiegato il presidente della compagnia Alexandre de Juniac durante la presentazione agli analisti dei conti del terzo trimestre. Air France KLM, principale azionista di Alitalia con il 25%, è un partner serio e leale, ha detto De Juniac, e vuole aiutare la compagnia italiana, ma non ha soldi da buttare. Darà quindi il suo contributo solo in presenza di un piano industriale, sociale e finanziario molto forte, tale da garantire la redditività futura di Alitalia. In caso contrario, farà un passo indietro. La decisione finale è attesa per metà novembre, quando verrà chiusa l'operazione di aumento di capitale. Nel frattempo, Air France KLM ha azzerato il valore della partecipazione in Alitalia. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. E tra le notizie di oggi c'è naturalmente quello che scrive il Fatto Quotidiano e a cui replica la ex compagnia di bandiera. Il Fatto Quotidiano parla di una email di un grande tour operator olandese, il quale dice: attenzione, la compagnia è in difficoltà economiche, potrebbe finire in bancarotta e nel qual caso non vi rimborseremo. La compagnia replica e garantisce la continuità dei voli e diffida dal diffondere notizie allarmanti. Per una valutazione sulle notizie di oggi, tanto quelle da Parigi quanto queste, ci colleghiamo con il collega del Sole 24 Ore, Gianni Dragoni, che da anni ormai segue questa infinita vicenda di Alitalia. Gianni, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, come valuti quello che è successo innanzitutto a Parigi? Una posizione tattica, come ci ha spiegato anche Marco Mussanè da Parigi, nell'ambito del negoziato che è in corso con gli azionisti, con le banche e indirettamente anche con il governo, anche se il governo, diciamo, ha dato il là all'intervento di salvataggio delle poste, poi mi pare che non si stia occupando di questa partita, nell'ambito dell'aumento di capitale, e la soluzione, la risposta l'avremo a metà novembre, quando scadono i termini per sottoscrivere la ricapitalizzazione. Air France ripete che se le condizioni che chiede non vengono rispettate non metterà la sua quota, sono 75 milioni, le condizioni quali sono? Un piano industriale che in effetti non c'è, oppure c'è un piano ma non è ritenuto sufficiente, non è ritenuto adeguato, che possa rendere più, che possa rendere redditizia, non lo è mai stato l'Alitalia CAI, non lo era neanche prima l'Alitalia pubblica, e un piano anche, vorrebbero i francesi, di ristrutturazione del debito. Questo credo sia la cosa, penso, più difficile in questa fase. Le banche non hanno questa intenzione, è una posizione comunque che è, diciamo, in un negoziato difficile le cose potrebbero anche cambiare con, se qualcuno fa un passo magari l'altro ne fa un altro. Ecco Gianni, invece dal lato dell'operatività di Alitalia ci sono dei rischi davvero secondo te? Rischi c'erano stati a fine settembre, quando è scattato tardi l'allarme e la compagnia aveva detto che rischiava di non avere soldi per pagare gli stipendi. C'era uno scaduto con l'Eni, il principale fornitore di carburante, che con una mossa, diciamo, un po' sorprendente in pubblico, l'amministratore delegato Scaroni aveva detto, mi pare fosse intorno al 10-8 di ottobre, non ci sarebbero stati i soldi per, non avrebbero più fornito il carburante se non arrivavano blocco di pagamenti. Poi questo sblocco c'è stato, sono stati versati 130 milioni nelle casse da tre azionisti e dalle due banche che garantiscono parte dell'aumento di capitale, quindi intesa. Per cui l'emergenza c'è già, e non ci fosse stata questa iniezione di denaro urgente, probabilmente gli stipendi di questo mese non verrebbero pagati e probabilmente, se avevo l'allarme di Scaroni, gli aerei già non riceverebbero carburante. Quindi con 130 milioni di euro quanto può andare avanti? Può andare avanti, dipende anche se i passeggeri continuano a volare o no, perché allora incasserebbe ancora meno. Certo, può andare avanti ancora qualche settimana, il capitale in parte è garantito fino a 240 milioni, è da vedere poi se le poste faranno, verseranno veramente la quota, qualora da qui a metà novembre loro interverrebbero dopo, succedesse qualche altro imprevisto. Grazie Gianni Dragoni, vedremo che cosa accadrà anche da questo punto di vista. Noi siamo alle cronache politiche che ci portano naturalmente al giorno dopo la riunione della Giunta per le elezioni del Senato. Come ormai sapete, ha deciso che l'Aula si esprimerà con voto palese sulla decadenza di Silvio Berlusconi. Anche di questo parleremo tra poco con il ministro Quagliariello. Intanto sentiamo gli aggiornamenti da Elisabetta Fiorito da Montecitorio. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora, la sinistra ha commesso un autogol, queste sono le prime parole di Silvio Berlusconi dopo la decisione della giunta, la partita non è finita, l'atteggiamento della sinistra è ormai sotto gli occhi di chiunque abbia anche soltanto un minimo di onestà intellettuale, la partita quindi è ben lontana dal fischio finale, perché la sentenza che mi ha condannato, dice Berlusconi, è fondata su delle falsità, nessuna ira, posso essere preoccupato, deluso e amareggiato, ma niente ira. Queste dunque le prime parole di Silvio Berlusconi il giorno dopo la decisione del voto in giunta per le elezioni sul voto palese in aula di Palazzo Madama per decidere la decadenza del Cavaliere, ma intanto il PDL è sempre più sul piede di guerra, il Cavaliere avrebbe già deciso che la crisi di governo è ormai inevitabile e va aperta in aula proprio sulla decadenza. Nel PDL poi c'è lo scontro interno con Angelino Alfano, malgrado il vice premier abbia subito attaccato il risultato della giunta. Per il ministro Giampiero D'Alia però il governo mangerà il panettone e altri dolci di festività successive. Risponde poi Linda Lanzilotta, ricordiamo la senatrice di Scelta Civica, colei che è stata l'ago della bilancia nel voto in giunta, e risponde a Maurizio Gasparri del PDL. Non è stato pagato nessun pedaggio, dice la Lanzilotta, ma è stata una scelta mia, una scelta civica. Quindi per il momento qui da Montecitorio sono questi gli aggiornamenti. A te Simone. Grazie ad Elisabetta Fiorito, sentiamo il punto di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. È vero, non se ne può più del caso Berlusconi, della infinita contesa intorno a un addio al Senato che è inevitabile dopo la condanna passata in giudicato. È una storia chiusa, lo sanno tutti, l'ex premier e i suoi seguaci. Ma detto questo, la decisione di passare al voto palese per l'ultimo atto della vicenda rappresenta una mortificazione della politica e del Parlamento. Il voto segreto sulle questioni che riguardano le persone è una garanzia democratica che non può essere messa sotto i piedi per le paure del centro-sinistra, per il suo eterno gioco a rimpiattino con i grillini. Ieri la giunta, che ha cambiato le regole, ha commesso un grave errore, se di errore si è trattato, che rischia di avere serie ripercussioni anche sul governo. Ora la strada dei moderati del centrodestra, Alfano e i suoi amici, è senza dubbio più stretta. Si poteva scrivere l'ultima parola con dignità, si è scelta invece una via che denota solo debolezza. Qualche dato economico arrivato questa mattina. Innanzitutto l'inflazione diffusa dall'Istat e poi da Eurostat, come sempre, che si ferma allo 0,7%, quindi ancora in calo la crescita dei prezzi al consumo. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, i prodotti ad alta frequenza d'acquisto a ottobre salgono anche qua dello 0,7% su base annua, diminuisce il prezzo della benzina del 5,5% su base annua. Per quanto riguarda invece la disoccupazione, in settembre è salita al 12,5%, ai massimi dal 1977. Questi sono dati dell'Istat, e la disoccupazione giovanile arriva oltre il 40%. Oggi intanto sciopero dei bancari, il primo da 13 anni, contro la decisione dell'ABI di uscire dal contratto. Manifestazioni in alcune città d'Italia, tra queste Genova. Andrea Ferro ha raccolto alcune voci di persone che erano in piazza. L'ultimo sciopero 13 anni fa, cos'è cambiato in questi 13 anni? In questi 13 anni la categoria ha subito grandissimi attacchi, non ultimo e soprattutto questo, cioè la disdetta del contratto nazionale, l'ombrello che garantisce tutta la categoria, per la quale è necessaria una risposta forte che oggi stiamo cercando di dare. Una volta fare bancario era un lavoro da privilegiati o quasi? Una volta, ma parliamo di tanti, tanti anni fa. Diciamo che poi è rimasta nell'immaginario collettivo questa idea del bancario privilegiato, ma sono parecchi anni che secondo me non è più così. Secondo voi è solo colpa della crisi? Secondo me qualcuno si sta approfittando della crisi e adesso da tempo lo stanno facendo, e adesso lo fanno anche i banchieri. In questo caso hanno disdetto il contratto perché così, come gli altri, vogliono diminuire i nostri diritti, vogliono diminuire i diritti che sono stati conquistati da anni e cercare di risparmiare il più possibile per aumentare i loro profitti. E ha paura del futuro? Un po' sì, devo dire la verità. I banchieri ci hanno proprio dato un pugno in faccia a tutti quanti. E oggi sciopero anche del personale di bar e ristoranti per analoga decisione, quella della disdetta di contratto della Federazione dei Pubblici Esercizi, la FIPE, che ieri ha deciso appunto di disdettare il contratto per mancati accordi sul nuovo contratto. Naturalmente, insomma, la questione è seria, poi anche oggi in Focus Economia ci ritorneremo parlando con i sindacati, però per un attimo consentiteci di prendere la cosa con un filo di leggerezza. Ti posso offrire un caffè? In fondo che male c'è? Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto? Una giornata senza caffè. Aiuto, voglio scendere. Quanti di noi, sentendo i notiziari che davano la micidiale notizia dello sciopero dei baristi, hanno pensato di darsi malati, chiusi per mancanza di caffeina e soprattutto della pausa caffè? La nostra vera droga quotidiana, quel benefico intervallo che ci permette di distanziare qualsiasi scadenza. Scadenza di lavoro o di bolletta da pagare, di famiglia o di impegno sentimentale. Ci sei o non ci sei? Ci facciamo un caffè? Ci fumiamo una sigaretta? Parliamo, sentiamo, discutiamo? Magari non è così tragica, si può rimediare. Un caffè. Caro vecchio caffè, siamo italiani, già ci manchi. A Napoli poi non ne parliamo, dove c'è ancora la tradizione del caffè sospeso, il caffè pagato per il cliente che verrà. Che bellezza, paesà! Qui a Milano, ex capitale del Gepensimi, abbiamo fretta, lo vogliamo stretto, ma oggi non ce n'è. Ci salveranno le macchinette, quella nell'angolo dell'ufficio, dove ci si nasconde dal capo per oziare, almeno il tempo di un caffè. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo dal caffè al calcio. Carlo Genta, eccoci. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Turno infrasettimanale, si attende la risposta della Roma alle inseguitrici stasera, no? Sì, abbiamo scoperto anche che la Roma si avvale dell'aiuto di un pool di maghi. dopo ne parliamo, tutti convocati, questo è bellissimo. Però, facendo i seri, ieri il Napoli ha fatto la voce grossa a Firenze, vincendo 2-1 nella partita di cartello di questa decima giornata. Alla Fiorentina manca un rigore al 90esimo che è stato interpretato diversamente da Calvarese. La Juventus senza problemi sul Catania, una Juventus che sembra avere un'altra faccia, ha invece la stessa faccia non bellissima al Milan, 1-1 in casa con la Lazio, non risolve mezzo problema, conferma la continua crescita di Kakà, e questa è l'unica nota positiva. Il suo gol è stata la cosa più bella della serata, della decima giornata. Stasera tocca alla Roma appunto rispondere, dicevi, gioca in casa con il Chievo, classico testa coda, prima contro ultima. La Roma insegue la decima vittoria in 10 partite e insomma sarà una serata di grande attenzione per tutta l'Italia del calcio, con le inseguitrici che appunto Napoli, Juventus e Inter che vincono le rispettive partite, e appunto la Roma che deve rispondere. Vedremo che cosa succederà questa sera e soprattutto rimanete in ascolto, perché tra circa 45 minuti, 50 minuti, Carlo Genta ci spiega questa cosa dei maghi, che sono curioso anch'io. Una pausa per la viabilità, ci ritroviamo tra un attimo e parleremo di legge elettorale. Vi stiamo chiedendo sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, secondo voi la cambieranno, ci riusciranno prima del prossimo voto? Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. All'Italia non vale nulla, secondo Air France, il vettore francese è azionista, zera il valore della sua partecipazione. Ancora scontro nella maggioranza sul voto palese per la decadenza di Berlusconi, oggi intanto la legge elettorale torna in primo piano, è il No Porcellum Day, giornata di protesta. Doppio sciopero oggi, si fermano baristi e lavoratori dei pubblici servizi e bancari. Inflazione ai minimi, allo 0,7%, tanto in Italia quanto nell'Eurozona, disoccupazione al 12,5%, quella giovanile oltre il 40%. Napoli e Juve tengono il passo nell'appuntamento infrasettimanale con il campionato, questa sera tocca alla Roma che si confronterà con il Chievo. Ed eccoci qua, in questa seconda parte vogliamo parlare di legge elettorale. Parliamo di legge elettorale, vi stiamo chiedendo sulla nostra pagina Facebook se secondo voi, www.facebook.com/effettogiorno, se secondo voi avremo una nuova legge elettorale per il prossimo appuntamento con le urne. Ne parleremo tra un attimo con il ministro Gaetano Quagliariello, che è già in linea con noi. Lo saluto, buongiorno, salve. Buongiorno a lei e agli ascoltatori di Radio 24. E benvenuto. Allora, le dico, Ministro, noi stiamo, da qualche giorno abbiamo deciso di raccogliere le voci delle persone che stanno, insieme a Roberto Giachetti, deputato del PD, stanno facendo una sorta di staffetta del digiuno, cioè ogni giorno una giornata di digiuno in solidarietà con Giachetti, per la riforma della legge elettorale. Ed è stata una protesta oggettivamente apolitica. Dunque, voglio farle sentire queste voci perché mi sembrano dei bei segnali di un impegno civile. Sentiamo. Chi abbiamo in linea oggi? Buongiorno, sono Emiliano Liberati dalle Marche. Sono Raffaele Pizzati da Salso Maggiore Terme. Sono Simona Malteci. E Emanuela Cossa. Ernesto Carbone, buongiorno a tutti. Per Carlo Rampini. Maria Paola Bono di Prazzo, provincia di Cuneo. Alessandro Gasman. Che mestiere fa? Attore e regista. Sono un'albergatrice. Architetto. Portiere di notte. Un dipendente privato presso una grossa azienda agroalimentare. Mamma a tempo indeterminato ma anche precaria. Sono deputata ma fino a marzo ero in classe e facevo la prof. Ci dice perché ha deciso di fare questo giorno di sciopero della fame? Perché credo che sia dovere di ogni cittadino metterci la faccia e dire no al porcellum per avere un sistema che consenta sia di decidere sia di avere un governo. Una battaglia per tutti, una battaglia per il paese, non è una battaglia del Partito Democratico né di Giachetti né di nessun altro. Roberto è la bandiera di questa battaglia, ma è una battaglia di tutti. Mi sembra paradossale che un paese come l'Italia non abbia una legge elettorale che consenta a noi cittadini di poter scegliere i nostri rappresentanti al Parlamento. Ovvio che la legge elettorale non è la panacea di tutti i mali, ma ovviamente potendo scegliere i nostri parlamentari preferiti e avere una legge elettorale che consenta una stabilità non dettata da larghe intese, ma proprio per un procedimento elettorale, sarebbe una cosa gradita agli italiani, forse anche ai paesi esteri che dovrebbero investire poi in Italia. Perché ha deciso di fare questa giornata di sciopero della fame? proprio per i figli, perché voglio farli crescere veramente in un paese diverso, in un paese normale. Perché siamo in un momento, come conosciamo, sappiamo tutti, drammaticissimo nel paese, e questo paese ha bisogno di governabilità che questa legge elettorale non ci garantisce, e perché credo che sia il momento per gli italiani di un rinnovo di una classe politica che, mi sembra di poter dire, non ha lavorato egregiamente, e credo che quindi dovremmo tornare a poter scegliere chi elegge. Perché in questo momento di crisi della politica ognuno di noi deve cercare di essere protagonista e dare corpo alle proprie idee, il che non vuol dire per forza candidarsi, essere eletto o andare in una sezione, ma in ogni posto di lavoro, dove siamo, all'università, essere testimoni di cercare di avere dei cambiamenti. E quindi fare lo sciopero della fame è un impegno etico. Perché è giusto che tutti gli italiani possano scegliersi il candidato che preferiscono alla Camera e al Senato. Questa legge non è nemmeno costituzionale. Allora, ministro Quagliariello, che bel esempio di impegno civile, per quanto limitato, non è, no? Però bello, no? Sì, no, poi mi sembrano, insomma, voci nella gran parte di buon senso, insomma, sì, e soprattutto mi sembrano voci tranquille di persone che vogliono ragionare, e questo è un buon segno anche per la politica. Allora, poi noi abbiamo intervistato la persona che ha, in realtà, ha guidato, le adesioni sono arrivate dal basso, però che ha guidato tutto questo, diciamo, che è Roberto Giachetti. Gli abbiamo chiesto, gli abbiamo detto: guardi, non da deputato, ma da, faccia finta di essere un analista politico e ci faccia un vaticinio. Secondo lei con che legge andiamo a votare con la prossima volta? Penso che si farà o col Porcellum o con qualcosa di peggio. Lei che cosa dice, ministro? No, io, fino a che faccio il ministro, ho anche un dovere istituzionale all'ottimismo della volontà. Però ritengo che non si possa andare a votare con questa legge, perché sarebbe una sconfitta per il Paese. Io penso, ho sempre pensato questo: noi non ci possiamo presentare dagli elettori con questa legge elettorale, non ci possiamo presentare con questo bicameralismo, non ci possiamo presentare con 1000 parlamentari tra Camera e Senato che fanno la stessa cosa, non ci possiamo presentare con un tempo di media doppio per fare una legge, non ci possiamo presentare con un titolo quinto che fa litigare il legislatore regionale e il legislatore nazionale senza che ci sia una camera di compensazione dove i due si incontrino e alla fine la loro lite finisce in Corte Costituzionale e l'imprenditore, il cittadino, non sa quale legge votarsi e quindi magari se ha degli interessi economici, come si dice, li delocalizza, ovviamente creando un danno all'Italia. Non ci possiamo presentare con governi che hanno una stabilità di 18 mesi, mentre in tutto il resto dell'Europa le medie sono molto più alte. In una società globale vuol dire condannare il paese alla decadenza e l'Italia e la politica all'oblio. Sulla legge elettorale, ministro, quale può essere il punto di contatto tra voi e il Partito Democratico? Mi dà un'idea, insomma, molto seccamente glielo chiedo. Insomma. Io non posso dire tra noi e il Partito Democratico, io ovviamente ho un ruolo istituzionale che mi porta a prescindere, diciamo, quindi dalle posizioni di partito. Ma io le dico questo: sulla legge elettorale c'è un problema. I cittadini che lei mi ha fatto ascoltare chiedono due cose: governabilità e scelta delle candidature. Il problema è sulla governabilità, perché oggi solo cambiare la legge elettorale non garantisce la governabilità, non c'è nessuna legge che possa garantire la governabilità, perché noi abbiamo due problemi. Uno, abbiamo un sistema che da tendenzialmente bipolare è diventato tendenzialmente tripolare o addirittura con 3,5 poli, e questo ovviamente peggiora enormemente le cose. Due, abbiamo un bicameralismo che non prevede lo stesso elettorato attivo, cioè alla Camera c'è un corpo elettorale e al Senato ce n'è un altro, perché al Senato votano le persone che hanno più di 25 anni, alla Camera quelle che ne hanno 18. E quindi, scusi, mi scusi, quindi il punto è: ci vogliono prima le riforme e poi la legge elettorale. No, io penso questo, anche perché c'è la Corte Costituzionale che sennò decide il luogo della politica. Io credo che una cosa seria sarebbe, uno, cambiare subito l'attuale legge, soprattutto in quelle parti che sono non solo incostituzionali, ma anche contrarie al buon senso. Non è pensabile che una legge dia un premio di maggioranza alla Camera che porta uno schieramento che magari prende soltanto lo 0,1% più dell'altro a raddoppiare addirittura la sua rappresentanza. Quindi cambiare adesso quantomeno il premio di maggioranza, non lei dice. Non soltanto, ma si può anche andare oltre, ma comunque rendere la legge costituzionale, anche perché la politica deve arrivare come primo passo. Prima dei giudici, per quanto appunto la Corte Costituzionale sia un'istituzione di garanzia, ma insomma la politica deve avere la dignità di fare queste modifiche e poi dovrebbe prendere l'impegno, e lo potrebbe fare anche attraverso un utilizzo sapiente e fantasioso della tecnica legislativa, a modificare ancora la legge nel momento nel quale sceglie qual è la forma di governo quando verranno fatte le riforme. Cioè, se noi andiamo a Parigi abbiamo una legge quasi obbligata, che è il doppio turno di collegio, se andiamo invece verso Londra o verso Madrid abbiamo delle altre leggi elettorali. E di questo ovviamente molto seccamente, ma ce la fate oppure no, secondo lei, Ministro? No, ce la dobbiamo fare, io lavoro perché ce la si faccia, che prima del 3 dicembre almeno un ramo del Parlamento abbia fatto questa modifica, anche perché questo ripristina una situazione di fisiologia della nostra democrazia, perché oggi con questi dubbi di costituzionalità sulla legge elettorale è anche più difficile pensare a un possibile scioglimento delle Camere. I governi devono stare in carica finché servono al Paese, non perché c'è una difficoltà ad andare a votare perché manca una legge elettorale. I cittadini hanno assolutamente ragione. Andremo a votare presto? Ma io mi auguro che si facciano le riforme, lavoro per questo. A questo Paese servono le riforme, se no non ce la si fa. Io ripeto, se noi ci presentiamo di fronte agli elettori ancora con 1000 parlamentari e con 2 Camere che fanno le stesse cose, ma ci mandano al diavolo. Si faccia fare una domanda politica. Lo scontro in questo momento che sta avvenendo tra le due principali componenti della maggioranza sulla questione voto segreto o voto palese per la decadenza di Silvio Berlusconi. Alcune persone del suo partito, alle quali però mi sembra di aver capito in queste settimane che non è particolarmente vicina, sono arrivate a dire è un assassinio politico la decisione sul voto palese. Lei come la vede? No, la decisione di ieri è una nefandezza. Non c'entra nulla se uno decina o meno, è una nefandezza. Io ho anche sentito colleghi senatori che stimo magari argomentare che in questo caso il voto segreto non sarebbe possibile perché la votazione riguarderebbe non una persona ma la composizione del Senato. È un argomento assolutamente falso e pretestuoso, perché i voti espressi dal Parlamento sui propri membri riguardano tanto le persone quanto la composizione del plenum, se no dovremmo votare a scrutinio palese anche le dimissioni di un senatore. E poi e quindi anche il voto sul presidente Berlusconi riguarda, ma senza alcun dubbio, la sua persona e riguarda anche la composizione del Parlamento. Il regolamento è chiarissimo, il regolamento del Senato prevede che siano, cito a memoria ma non penso di andare molto lontano, effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti le persone. Cioè quel comunque è che, come si dice, taglia la testa al toro. E quindi io penso e spero che nelle prossime ore anche quello che ieri ha detto Alfano, dar battaglia in aula, fare un ulteriore appello perché su questa decisione si possa tornare. Si può ribaltare la situazione in Parlamento, cioè si può arrivare al voto segreto? Ma io credo che guardi, la decisione della Giunta è una decisione della Giunta, sì. Però credo che bisogna prendere un'iniziativa in questo senso. Allora, grazie, la ringrazio Gaetano Quagliariello. No, mi scusi, però un'ultimissima domanda, ma come si fa a tenere insieme una maggioranza nella quale un ministro come lei mi dice che un pezzo della maggioranza ha compiuto una nefandezza. Io questo fatico a capire, ma sinceramente, le ripeto, non è una valutazione politica, cioè non capisco. Ma guardi, io credo che l'orientamento deve essere sempre quel che serve al paese. Cosa provocherebbe oggi una crisi? E se posso dirle cosa provocherebbe oggi una crisi al paese, ma anche cosa provocherebbe una crisi al centrodestra e allo stesso Berlusconi. Ecco, io credo che su questo noi abbiamo delle valutazioni differenti all'interno del PDL. Non è un problema di... consigliato malissimo il Cavaliere, dice lei. Io dico semplicemente che in questo momento credo che una crisi non sarebbe nel suo interesse, sotto tutti gli aspetti, e tantomeno sotto l'interesse del centrodestra. Io credo che noi abbiamo un obiettivo comune, tutti quanti, è quello di non consegnare questo paese alla sinistra per i prossimi 20 anni. Su come fare a raggiungere questo obiettivo la pensiamo diversamente. Grazie Gaetano Quagliariello, buona giornata e buon lavoro naturalmente. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. In primo piano in questo momento il corteo nel centro di Roma dei movimenti per la casa, perché ci sono violenze con le forze dell'ordine, scontri con le forze dell'ordine. A quello che si apprende in questi minuti, allora, alcuni manifestanti hanno assaltato un blindato delle forze dell'ordine in via del Tritone nel centro di Roma, alcuni di loro ci sono saliti sopra, le forze dell'ordine hanno cercato di farli scendere. Poi ci sono stati nuovi scontri nel tentativo di sfondare un cordone della polizia, a quanto pare i manifestanti hanno spruzzato dello spray urticante verso i poliziotti e la polizia ha risposto con dei lacrimogeni. Appena avremo aggiornamenti naturalmente ve li daremo. Le altre notizie, c'è Air France che dice che sostanzialmente all'Italia non vale nulla perché il vettore francese azionista ha azzerato il valore della sua partecipazione. E poi c'è lo scontro nella maggioranza sul voto palese per la decadenza di Berlusconi. E oggi intanto resta in primo piano la legge elettorale, è il No Porcellum Day, giornata di protesta. Il ministro Quagliariello, intervenuto poco fa ad Effetto Giorno, dice: sulla legge elettorale intanto iniziamo a cambiare la parte che è incostituzionale. C'è un doppio sciopero oggi, si fermano baristi e lavoratori dei pubblici servizi e bancari. E adesso parliamo di cronaca, e parliamo di cronaca con questi 3 delitti in 3 giorni a Milano. L'ultimo ieri sera in strada a colpi di fucile, la vittima è il boss Pasquale Tatone, fratello di Emanuele, ucciso domenica scorsa insieme al suo autista a poca distanza. Teatro degli omicidi, uno dei quartieri storici della criminalità milanese. Quarto Oggiaro, sentiamo. Gli hanno sparato in strada con un fucile a pallettoni fuori dal locale dove aveva visto la partita. È morto così il viceré di Quarto Oggiaro, Pasquale Tatone, 54 anni, fratello di Emanuele, ucciso domenica scorsa insieme al suo autista a poca distanza. Il luogo è lo stesso, Quarto Oggiaro, periferia nord-ovest di Milano. Crocevia storico della mala milanese da 30 anni per i Tatone, feudo di spaccio e affari sporchi, spartiti con gli altri clan locali dai Crisafulli ai Carvelli. È l'inizio di una faida tra clan per il controllo del mercato della droga, ipotizza qualcuno, ma il questore di Milano Luigi Savina smentisce. Credo che si possa escludere una faida nel senso che viene intesa in alcune zone del meridione d'Italia, quindi come il contrasto tra due famiglie che va avanti da tempo. Ho letto anche alcune ipotesi di conflittualità per droga, questo su Milano non è più così da almeno 30 anni, più probabilmente sono banalità che possono sfociare in questo tipo di delitti. Negli anni 70 e 80 Quarto Oggiaro era il quartiere simbolo della criminalità al nord, la scampia di Milano. Da allora però molto è cambiato, precisa il questore. Quarto Oggiaro un po' porta il nome ancora di una periferia degradata, non è più così, ma ci sono ancora evidentemente alcuni aspetti su cui bisogna lavorare e lavorare tutti quanti assieme. Lo scrittore Gianni Biondillo a Quarto Oggiaro è nato e cresciuto, in quelle strade ha ambientato i suoi romanzi. Ora però chiede di uscire dai cliché. Pensare che sia lo stesso quartiere di quando io ero bambino è folle. Io ci torno continuamente, mia mamma abita a Quarto Oggiaro, è vero che il quartiere è diverso, la stessa criminalità di una volta sta andando in pensione, cioè la famiglia Tatone la conosciamo tutti, una sorta di a modo suo folcloristico residuo di un'idea camorristica del gestione del territorio. La cosa più importante è evitare, insomma, che il 99% degli abitanti di Quartaggiaro, che sono persone oneste, che sono lavoratori, sono pensionati, sono ragazzi, si vergognino di dire di abitare in quel luogo. E Quartaggiaro non è un quartiere più pericoloso di altri a Milano da questo punto di vista. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso ricordiamo Federico Fellini, a 20 anni dalla morte. La scomparsa di Federico Fellini fece piangere l'Italia. Era il 31 ottobre 1993, 20 anni fa. Dopo la camera ardente nel Teatro 5 di Cinecittà, affollata da oltre 100.000 persone, i funerali vennero celebrati il 3 novembre nella Basilica di Santa Maria degli Angeli di Roma. Il cronista che vi parla avrebbe preferito che al suo posto ci fosse il collega che da tanti anni segue professionalmente e ha seguito con l'amicizia Federico Fellini, ma Vincenzo Mollica ha preferito non essere qui al microfono, temeva forse che la voce non sarebbe riuscita, vinta dalla commozione, a trasportare, a trasmettere quello che il cuore gli suggeriva. Giorni di dolore che vennero raccontati anche dall'amico Sergio Zavoli in un indimenticabile documentario per l'Istituto Luce. Ci sono tutti in questo pomeriggio di novembre che già annuncia l'inverno. Anche i ragazzi di Amarcord che sulla terrazza del Grand Hotel ballarono tenendo in braccio la nebbia. E ora il ricordo di Federico Fellini? A celebrarlo in questi giorni poco le istituzioni, sicuramente di più il mondo del cinema. Prima alla Mostra di Venezia col film documentario di Ettore Scola, Che strano chiamarsi Federico. Il Festival di Roma poi gli renderà omaggio attraverso Federico degli Spiriti, l'ultimo Fellini di Antonello Sarno. A novembre il Torino Film Festival presenterà in anteprima mondiale 8,5 restaurato, mentre la Cineteca di Bologna progetta la resurrezione digitale di Roma. Mi sembra di sentire la voce di un mio antico produttore. Ma come? Finisce così. Ma dammi almeno un raggio di sole, mi supplicava alle prime proiezioni dei miei film. Un raggio di sole. Ma, non so, proviamo. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Corteo dei movimenti per la casa a Roma, alcuni manifestanti hanno assaltato un blindato delle forze dell'ordine in via del Tritone. Una nefandezza, così il ministro Quagliariello commenta effetto giorno la decisione sul voto palese per la decadenza di Berlusconi. Il Cavaliere dice la sinistra ha commesso un autogol. All'Italia non vale nulla secondo Air France, il vettore francese ha azzerato il valore della sua partecipazione. Inflazione ai minimi si attesta allo 0,7% tanto in Italia quanto nell'Eurozona, disoccupazione italiana al 12,5%. E ora è il momento di America 24 e di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. Ieri la Federal Reserve ha detto che lascerà invariati i suoi interventi sul mercato, dunque è lecito immaginare che forse dovrei aprire su questa notizia che dal punto di vista economico è stata quella che ha dominato ieri un po' i mercati. In realtà, secondo me, quella notizia di cui parleremo è meno importante di un'altra notizia, di un avvenimento che partirà oggi a Washington, e vorrei cominciare col farvi sentire la voce di questa signora. America is open for business. That's the message we're sending with the United States first ever investment summit. Penny Pritzker, segretario al commercio americano, che annuncia per la giornata di oggi e per la giornata di domani un evento straordinario, sicuramente dal punto di vista della dimensione, ma certamente nuovo, perché non era mai successo che il Dipartimento al Commercio organizzasse un summit per attirare investimenti stranieri diretti negli Stati Uniti. Il titolo del summit è Select USA, dunque selezionate l'America per i vostri investimenti. E la signora Penny Pritzker, segretario al commercio, appunto, ce l'ha messa tutta, ci ha messo anche il prestigio della sua famiglia, del nome della sua famiglia. Thank you